10. Chi è? Dico 10. Dico 10. Marcolino, ci sei? CQ10 a Trento, Marcolino. Mi parli di questa raccomandazione? Attenzione Marcolino se sei in ascolto. Attenzione Marcolino se sei in ascolto. Hai visto che è uscito fuori? È uscito a pizzo, hai visto? Ah, ma c'è un brodino di mambo, va! Tu zitto, cuocuomane! Com'è ce l'hai? Cioè, com'è? Eh? Sì, è vero! Ah, ma c'è un brodino di mambo, vai! Vai, cuocuomane! Sì, bannalo! Dai a poco di stop! Gli metto la portata e non parla più, col muro si va. Vai, io ti faccio parlare col muro. Ho ritirato il telefono, eh. Cosa hai fatto? Ho ritirato, aspetta il telefono un attimo. Ehi. Ciao Stefani. Ciao Natalì, buonasera a te. E allora, come va? Beh, sto guardando un... come si chiama? Arriverà domani, spedito, fai vedere. Sì, sì. Domani mi arriva tutto quanto. Tutti i soldi ti stai spendendo, ehi, ho ordinato due cose lì da Amazon. Ho ordinato un... come si chiama? Un... multimetro, mini fa volt, ampere, wattmetro da mettere nell'alimentatore. Okay. Il ponte di Schunz, non so se lo conosci. Il ponte? Di Schunz, un che cosa? Lo conosci o no? Sì. Se sei troioso, per forza. E tu perché non sei puttanaro? Io te lo dico che sei puttanaro. Vai, vai, abitante in via. Cosa vuoi, che dica il numero di telefono? Sì, 23481. Adesso ci manca solo Marcolino Condo. Marco Con. Allora, manca solo lui e adesso siamo al completo. Ce ne manca un altro. Chi è che manca? E un pieno drago ci manca. Mamma mia. Cappuccioni, al telefono. Vai, vai, con tutti quei capelli in testa che c'hai, va. E allora, adesso scendo giù e ne scendo le mutande a Italia. C'era Super Pippo anche, gli faceva, lo faceva girare le balle. Ehi là, quello non l'ho più sentito né visto. E Super Pippo c'ha un laboratorio, cioè lavora. È un laboratorio dietro Piazza Università. Io sono rimasto allora qui i tempi lì. È amico di Marcolino Condo, era. Per forza, erano tutti e due. Io sono qui che mi sto annoiando al computer. E ti sto annoiando? Come mai? Al computer ti sto annoiando? Cosa stai guardando? Sì, stavo guardando una live di uno che sto seguendo, ma ho spento perché ho sentito la voce. Una live? Sì, una live su YouTube. Ah, ho capito. Ho comprato un alimentatore da 40 ampere, 12 euro ho pagato. Sì, di quelli senza strumenti e senza niente. Io da 30 l'ho regalato a un amico che se gli ha inchiodato il suo. Quelli che hanno la ventola interna, switching, così. Ehi, quello è un switching, sì sì, ho preso uno di quelli e poi... con questo voltmetro, amperometro che gli ho messo, fa anche il watt, che ho messo, mi sta arrivando, lo metto in una scatoletta, lo regolo, gli metto il potenziometro esterno, bellino, almeno c'è un 40 ampere, cioè ne ho già limitatori, già non mi mancano quelli, però questo era, costava poco e l'ho preso. Sì, funzionano anche bene, io ce l'avevo da 30, l'ho regalato a un amico che gli serviva, perché io ho quello con gli strumenti switching della Roxor, mi sembra che sia, o 30 ampere, 30 ampere sul mito mi pare che sia, 35 o 30, però se ce l'ho anch'io, 30 ampere. Cioè, quello che dico io, quello che ho io. C'è un nuovo, ancora scatolato, non l'ho aperto, l'ho acquistato un paio di mesi fa. Ehi, almeno puoi alimentare gli stessi apparati, capito? Oppure un nuovo di quelli che sei. Ehi, guarda, allora, alimentatore già ne ho, c'ho il PS50, quello c'ho la Dolby. PS50, poi c'ho qui, c'ho un i6, poi c'ho il Proxel, poi c'ho un Intec da 50 ampere, bello, ma quello è grande, è un bocchetto sempre. E io ce l'avevo quello di quelli tradizionali da 40 ampere, però 40 ampere davvero da zia Ghissu, perché l'avevo fatto modificare, quello era una bestia, l'ho dato insieme al 440. E poi c'è anche ZG, uno della PSHP, uno della ZG, nuovo anche quello. No, quello da 50 ampere, della Intec, gli dobbiamo mettere quello strumento, capito? Perché è senza strumenti, cioè i due borsetti acceso e spento. Mi piacerebbe mettergli lo strumentino, capito? Che è più bellino. Sì, infatti. E il capo. A me mi tocca uscire con questo omologato, mi tocca uscire. Una scatola di fiammiferi. Perché se no disturbo e... Già, dice che mi hanno chiamato quelli che devono controllarmi, però non ho servito nessuno ancora, no? Beh, io per sicurezza comunque sto usando questo l'apparecchio. Vabbè. Certo, esce bene, pulito, chiaro, non c'ha un rumore, perfetto. E va bene. Sì, ho buscato i tappi, il frontalino, me l'ho fatto nuovo, perché era tutto, era vecchio e antico questo apparecchio, un Goldatex 4008, non va a smettere, non va a nulla. Vabbè, John Smith non c'è niente, però almeno esci bene. Sì, 5 watt sta uscendo, sì, 5 watt sta poi oggi, non doveva nevicare oggi. Cosa aspetta? Ho detto, non doveva nevicare oggi. Sì, doveva, con quel cielo che c'era, finito, a Olbia è pieno di nevi, Olbia, Tempio, Stragallura. E lo so, anche a casa mia, nel Palazzo Miro, mi hanno mandato le foto stamattina e c'era la neve. Ma un palmo proprio, ha incominciato verso mezzanotte e un quarto, mezzanotte e mezzo a nevicare. Quindi tutto il giorno, cioè tutta notte nevicando è stato. E qua evidentemente non è riuscito a abbassare la temperatura e quindi non ha nevicato. Infatti, non lo so, era previsto qui oggi. Mesiani mattina, sera, fai, team, boom, invece stamattina c'è del sole, la temperatura, vabbè, non erano alte le temperature, però non da va. Sì, infatti, se non scende a zero non nevicano, a zero gradi deve scendere. Sì, ma neanche a oggi lo è, ne ha fatto. Sì, io lo so. Sono uscito tranquillo, ho portato il cane, c'era il sole. Vabbè, andà bene, avanti c'è posto. Te lo compri un dildo? Cosa aspetta? No, niente. Vabbè, lì, ci sentiamo dopo. Devo fare una commissione. Sì, ciao. C'è qualcuno qua?